Tarzan boy. Sonan, sentiremo lo stile. Sentiremo lo stile dei Zamboy. Sono, sentiremo lo stile. Per quanto ce ne fosse, infama non capisse. Per quello che bastasse, non serve laurearsi. Manco sovrattasse, ho le solite promesse. A me me sa che molla fatta grossa. Mossa, da me sei una mossa. E sta a fa la muffa, te vedo commosso. Ma devi posare l'osso, rimetterlo al suo posto. Allenta la morsa che genera il divario economico. Minimo, ma uno promesso il minimo. Ma non me perdo d'animo, mi sembra un po' patetico. La voce degli economi se perde tra i popoli. La voce degli popoli, popoli, popoli, popoli. Ma quanta ce ne sta, bastanza per cercare. Nella semplicità ci trovi la felicità. E non è un'opinione, e non è un'illusione. Pure se non la dici, tu la sai la verità. E quante volte capita che non mi sei capacità. Tenere la mia vita bella diventa patetica. L'aria diventa arida, colpa della politica. Della mente che predica e che mi isola. Siamo soli. Infama non capisse, per quello che bastasse. Ma che bomba stimme, ti vedo perplesso. Se ti levo lo sfizio, ma più ogni piatto ricco c'è sempre pochi se magna il vero. Minimo, è il minimo degli stimoli. Per rimanere sensibili, per dominare alibi. Ci tocca essere abili, per nominare consoli. Per delegare meriti, ambasciatori delle conquistopole. Capite che il mondo si fa sempre più duro. Arriva il momento della stappa e del muro. Ma non capite che meglio non piasse per culo. Parecchia pa coscienza per non sbattere la testa al muro. Te succhiano, te spremono, te riducono allo strascico quando torna a casa.